2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati a 2024, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Siamo in onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica alle 13.30. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Come sapete, preferisco, anche per motivi di ordine organizzativi, diciamo così, ricevere i messaggi in posta elettronica piuttosto che Twitter, Facebook, e poi non si perde traccia di tutto. Dunque, non ci sono particolari novità né sui bandi che mettono a disposizione risorse pubbliche per l'infrastruttura in fibra ottica in banda larga per le zone cosiddette a fallimento di mercato, bandi annunciati per il 29 di aprile, ma ancora non si vede traccia. E non ci sono particolari novità nemmeno su, almeno non ci sono novità ufficiali, diciamo così, su MetroWeb. Sapete che MetroWeb è in vendita, gli azionisti di riferimento sono un fondo al 54% F2I e Cassa Depositi e Prestiti, ma di fatto Cassa Depositi e Prestiti e il governo ha, potremmo dire, l'ultima parola sulla vendita. Allora, l'orientamento di Cassa Depositi e Prestiti è quello di preferire Enel rispetto a Telecom Italia per vendere MetroWeb. E questa potrebbe essere una buona notizia. Comunque la commenteremo quando ci sarà l'ufficialità. Adesso alcune notizie in breve che abbiamo selezionato durante la settimana. Digital News. Iniziamo dal sistema satellitare Galileo. Sono stati lanciati con successo due nuovi satelliti del sistema di posizionamento globale europeo. Si tratta del numero 13 e del numero 14, altri quattro satelliti verranno messi in orbita a novembre ed entro la fine dell'anno la Commissione europea ha intenzione di avviare i primi servizi di localizzazione su un'area di copertura ovviamente limitata, visto che siamo all'incirca a metà del numero di satelliti che dovranno essere messi in orbita. La costellazione sarà pienamente operativa entro il 2019. Microsoft e Facebook hanno raggiunto un accordo per finanziare la posa di un nuovo cavo di telecomunicazioni in fibra ottica, chiamato Marea, che sarà posato in fondo all'Oceano Atlantico fra Stati Uniti ed Europa. La maggiore capacità di connettività serve per fare fronte alla domanda crescente di servizi da parte di consumatori e aziende. La posa inizierà ad agosto e si concluderà ad ottobre 2017. Si tratta di uno dei tanti cavi transoceanici che scorrono sul fondo degli oceani, però sicuramente fa notizia perché la posa è finanziata da Microsoft e Facebook direttamente, anche Google finanzia la posa di cavi e non solo le società di telecomunicazioni. Oracle annuncia un ricorso contro la decisione della Corte federale di San Francisco, secondo la quale Google ha usato correttamente Java all'interno di Android. Oracle aveva chiesto nel 2010 un risarcimento da 9 miliardi di dollari, accusando Google di aver infranto alcuni brevetti legati a Java. 150 nuovi investitori hanno versato nelle casse di Snapchat 1,8 miliardi di dollari. Secondo varie fonti, la valutazione dell'app di messaggistica, che ha al momento circa 100 milioni di utenti, è fra i 15 e i 20 miliardi di dollari, e per alcuni sono un po' troppi, però queste sono le valutazioni che vengono fatte nei corridoi tra New York, tra le borse americane di New York e quella di Times Square, il Nasdaq e Wall Street e la Silicon Valley. L'ultima notizia riguarda i canali della Rai sulla piattaforma TVSAT, con l'arrivo di Rai Premium HD e Rai Movie HD. Salgono a 7 i canali in alta definizione della RAI sulla piattaforma appunto satellitare TVSAT. È stata affidata ufficialmente questa settimana, diciamo che c'è stato un percorso piuttosto lungo, ma l'ufficialità è arrivata questa settimana, è stata affidata la progettazione e la costruzione di una macchina scientifica gigantesca, si chiama European Extremely Large Telescope, quindi telescopio estremamente largo europeo. che sarà il telescopio ottico più grande al mondo. La costruzione terminerà tra circa 8 anni, affidata ad Astaldi e Cimolai con il coordinamento di EIE Group, che è una società italiana specializzata nella costruzione di queste macchine scientifiche gigantesche e in modo particolare i telescopi. Non dobbiamo pensare ai telescopi ottici che magari ci avevano regalato quando eravamo ragazzini. Le cose sono cambiate drasticamente negli ultimi tempi, e allora per capire di che cosa stiamo parlando e anche del valore di questa opera per l'industria italiana e anche della complessità tecnologica, è con noi il fondatore, l'ingegner Gianpietro Marchiori, nonché amministratore delegato di EIE Group. Benvenuto a 2024. Grazie a lei, eccomi a vostra disposizione. Ingegnere, le faccio subito una domanda su questo Extremely Large Telescope, questo telescopio così gigantesco fin dal nome. Di cosa stiamo parlando? Allora, devo fare una battuta da subito, e la fantasia degli astronomi non è eccezionale da questo punto di vista, perché abbiamo cominciato nell'86 con quello che si chiamava New Technology Telescope, ed era un telescopio della classe 3,6 metri, che vuol dire uno specchio del diametro di 3,6 metri. Qualche anno dopo si sono inventati un telescopio della classe 8 metri e quindi dovevano chiamarlo un po' più grande di, ed è venuto fuori il Very Large, il veramente largo. Poi sono arrivati negli anni 2000 i telescopi giganti, e quindi più grande del grande era l'estremamente grande. E quindi stiamo parlando di un telescopio da 39 metri di diametro di specchio, una cosa mai pensata. Pensate che ad oggi gli attuali telescopi, che sono quelli della classe 8 metri, ce ne sono 4 da 8,2, ce ne sono 2 da 8,4 metri in un unico strumento, in un'unica montatura, si chiama LBT, poi ci sono 2 americani da 10 metri, ma in realtà 8 metri attivi, e poi ce n'è uno alle Canarie spagnolo. Quindi siamo passati dal fine degli anni 90 ad oggi in un salto pazzesco di tecnologia, ma anche di contenuti scientifici, da 10 metri a 39 metri di diametro. Sì, è veramente incredibile. In realtà questi 39 metri di diametro non sarà un unico specchio, cioè, è una cosa un po', certo, un po' complicata. Ecco, come sarà fatto, allora, questo che viene chiamato specchio, ma in realtà non è un unico specchio? Esatto, allora i telescopi di cui parlavo prima della classe 10 metri hanno stabilito il limite di capacità costruttiva, perché erano telescopi di tipo monolitico, oltre agli 8 metri sono incostruibili ma soprattutto intrasportabili. Conseguentemente si è cambiata, ed è qui la grande rivoluzione, quella di fare telescopi a mattonelle. Ricordo che un astronomo bolognese aveva già inventato il telescopio a tasselli ancora negli anni 50. Adesso questo tipo di concetto è stato ripreso e abbiamo un telescopio da 39 metri costituito da circa 800 segmenti di tipo poligonale, esagonale, la cui forma assomiglia a uno specchio da 39 metri. Quindi tutti uno attaccato all'altro. Sì, c'è una tecnologia molto complessa, nel senso che dovete sapere che la superficie di uno specchio, che è una superficie di tipo parabolico, deve avere una precisione nanometrica. Quindi pensate la difficoltà a tenere queste 800 mattonelle allineate a livello nanometrico, con un gap di pochi millimetri una dall'altra, nelle sue condizioni operative, che sono la gravità, nel senso che il telescopio, lo specchio, ruota per osservare gli astri e quindi gira da una posizione orizzontale quando guarda allo zenith a una posizione mediamente inclinata fino a 20 gradi rispetto all'orizzontale. È chiaro che l'effetto della gravità su questi specchi ha un effetto diverso a seconda della posizione, quindi ogni specchio al suo posteriormente ha tutto un sistema meccatronico di leve, di meccanismi, di motorizzazioni, di sensori capaci di sentire le deformazioni e correggere le deformazioni dovute alla gravità. Su questo si sovrappongono gli effetti del vento, perché il telescopio osserva quando si apre la cupola, osserva in open air, quindi in aria aperta, e quindi è soggetto all'effetto del vento che spinge in maniera diversa su una superficie, una vela enorme come quella del 39 metri di diametro, e poi c'è anche l'effetto della temperatura. Tutti questi fattori vengono gestiti da macchinari, da apparecchiature, da sensoristica che è posta dietro allo specchio stesso e che fa una delle parti più importanti delle prestazioni di un telescopio di queste dimensioni. Questo telescopio verrà realizzato nel deserto di Atacama, una zona del Cile dove c'è aria molto rarefatta, è un deserto, si è molto in alto, si è lontani da fonti luminose, quindi una zona particolarmente adatta per strutture di questo genere che devono captare tutta la luce possibile dalle stelle o da altri oggetti celesti. E poi l'emisfero del sud è anche più interessante dal punto di vista scientifico per gli astronomi, e questa è un'opera che viene realizzata per conto dello European Southern Observatory, la ESO, tradotto in italiano l'Osservatorio Europeo Australe, che è un'organizzazione europea scientifica di ricerca astronomica che è formata da 15 nazioni, cioè l'Italia, ci sono altre nazioni europee, ingegnere. Stiamo parlando del deserto di Atacama, in Cile ci sono tra i più importanti siti astronomici del mondo, l'ESO ne ha 4, quello di La Silla, che è a circa 600 km a nord di Santiago, e poi questo nuovo che si chiama Cerro Armazones, Cerro Monte Armazones, che è già stato predisposto, è una montagna che superava i 3000 metri, è stata spianata sulla sua sommità per avere una superficie sufficiente per allocare questo enorme edificio, che è grande come praticamente come un campo da calcio, 100 metri di diametro, al cui interno viene allocato poi questo strumento, che è questo telescopio gigante. La ESO, questa organizzazione di cui abbiamo parlato, ha affidato la costruzione, la progettazione, la costruzione ad un consorzio. Il vostro ruolo qual è? Allora, facciamo un po', torniamo un attimo indietro nel percorso. Allora, si è arrivati a queste tecnologie dopo, perlomeno noi, dopo 25 anni di lavoro in questo settore, avendo messo insieme tutta una serie di tecnologie capaci di rispondere alle esigenze tecnologiche e scientifiche di questo grande strumento. EIE quindi nel suo percorrere questa strada, specializzandoci proprio in campo astronomico, ha messo insieme le tecnologie per realizzare l'edificio che contiene il telescopio e il telescopio stesso. Quindi EIE ha messo insieme un consorzio, Astaldi e Cimolai sono i due partner, per mettere insieme quest'opera. Quindi ha ricercato una grande impresa di costruzione internazionale come lo è Astaldi, e Cimolai, che in questo momento rappresenta uno dei più grandi manipolatori, come lo chiamo io, del ferro, avendo realizzato nel mondo i più bei stadi del mondo, i più bei ponti del mondo, e quindi uno che sapeva benissimo manipolare l'acciaio. EIE ammette tutta la parte ingegneristica, noi quindi facciamo il 100% del progetto dell'ingegneria. Ricordo che questa non è un'ingegneria che finisce quando uno ha prodotto i disegni, le liste materiali, eccetera, è un'ingegneria che finisce quando si consegna il telescopio funzionante. Quindi noi seguiremo tutte le fasi di acquisto, fabbricazione, trasporto, installazione in sito, commissioning finale per la messa in funzione dell'opera e tutti i test di accettazione. Questo perché i requirement di progetto sono tali soltanto nel momento in cui tutte le apparecchiature che concorrono alla funzionalità del telescopio avranno le loro massime prestazioni, perché ricordo che siamo ai confini delle tecnologie. Ricordo che questo progetto era nato originariamente dal committente come noi abbiamo, tanto per aprire un'altra parentesi, non è un punto di partenza il contratto che abbiamo firmato l'altro giorno, ma è un passo di un percorso che era nato ancora nel 2007, e in 8 anni abbiamo messo insieme quelli che erano i disegni, i concetti, gli studi di base per garantire che questo telescopio fosse realizzabile. Era nato con un diametro 42 metri, ma per poter far tornare tutte le prestazioni si è dovuto ridurre la dimensione da 42 a 39. Sembra poca la differenza, ma dal punto di vista della funzionalità è totalmente diverso. Quindi, ritornando al tema principale, che cosa fa EIE? Ripeto, tutta l'ingegneria, e poi facciamo una fornitura di una serie di pacchetti che sono strategici. Tutto il sistema di controllo, per puntare ai confini dell'universo bisogna avere dei sistemi di controllo real time, estremamente complessi, che raccolgono tutta la sensoristica dell'edificio e del telescopio, la mettono insieme in maniera peculiare e garantiscono di poter puntare ai confini dell'universo. E poi tutta una serie di altre apparecchiature, tipo i sistemi di sostentamento idrostatico, i sistemi di motorizzazione, tutto quello che in un certo senso trasforma un'enorme struttura. Il telescopio, ricordo, è alto quasi 70 metri, la cupola è 80 metri dal livello del terreno, la cupola pesa circa quasi 6.000 tonnellate che girano, il telescopio pesa 3.300 tonnellate. Noi forniamo anche tutte quelle apparecchiature che poi lo fanno girare, lo fanno muovere, lo fanno attuare. Sì, gli specchi? Gli specchi non fanno parte, il contratto recita, ed è il più grande contratto mai emesso da questo organismo europeo ed è il più grande contratto nel settore astronomico. Gli specchi non fanno parte, noi forniamo il dome e la telescope main structure. Però lei lo sa chi fa gli specchi? Non lo so, perché la gara non è ancora stata assegnata. Allora vi spiego. In tutti questi anni sono stati fatti esperimenti, prototipi di vario genere, hanno concorso varie aziende europee, tanto per fare gli specchi quanto per fare l'attuazione sotto. Esistono parecchie aziende che possono fare la meccanica che sostiene lo specchio, ci sono pochissime aziende in Europa che hanno le tecnologie per fare gli specchi. Cito alcune senza assolutamente muovere nessuna segretezza in questo momento. La Schott tedesca è sicuramente in pista, una delle potenziali in pista per la produzione dello specchio, della parte, diciamo, della fusione del materiale. Esistono altre aziende come la Reosc francese, la Zeiss, che sono in grado poi di prendere questi blank, come si dice in termine tecnico, e lavorarli per ottenere uno specchio che ha le caratteristiche di superficie nanometriche di cui parlavo prima. Senta, voi siete specializzati, oltre che nella costruzione di telescopi, anche in generale in grandi macchine scientifiche. Che cosa intendiamo? Allora, l'azienda EIE ha deciso ha cominciato nell'86, prima di esistere ancora, ha mosso i primi passi in questo settore, nell'89 ha fondato la prima società, adesso siamo un gruppo che ha sostanzialmente due macro orientamenti, uno le osservazioni da terra e uno le osservazioni da spazio, quindi abbiamo le ground technology e le space technology. Nell'ambito del ground noi forniamo tutto quello che si può fare da terra, quindi i telescopi ottici, i radiotelescopi e i telescopi Cherenkov, che sono la novità di questi ultimi anni, che sono quelli per catturare quella frangia che si chiamano i raggi gamma. Dopo, dallo spazio, abbiamo iniziato da pochissimo, sostanzialmente telescopi space to space e space to ground, perché ricordo che esiste tutta una serie di tecnologie capaci di osservare dallo spazio verso terra per tutti i problemi climatologici, eccetera, eccetera. Sì. Queste sono le nostre specializzazioni. Le faccio un'ultima domanda sul tipo di business. Voi siete un'azienda privata che opera in un settore che è fortemente influenzato da decisioni politiche, perché i finanziamenti a queste grandi strutture sono decise dai governi, dagli stati che partecipano appunto a queste grandi associazioni o comunque queste grandi organizzazioni che si occupano di ricerca scientifica. Come stanno andando le cose dal punto di vista almeno europeo, perché ormai la dimensione è quella europea? Sì, allora direi che man mano che gli scienziati pensano, le cose diventano sempre più giganti e quindi anche planetarie dal punto di vista della possibilità di recuperare i fondi per queste grandi opere. Le cito un esempio di ALMA, che è Atacama Large Millimeter Array, che è il più grande radiotelescopio mai pensato, che noi abbiamo iniziato negli anni 99 con un prototipo e abbiamo finito di consegnare l'anno scorso. È un'opera da 66 radioantenne da 12 metri di diametro di parabola, con un concorso di tre grandi organizzazioni, la ESO, appunto quella che citavo prima, che è l'organizzazione europea, poi la National Science Foundation americana con le sue succursali divise nel territorio americano e poi il Giappone. Quindi un'operazione che vale più di 1 miliardo di euro, che è nata grazie alla collaborazione tra diversi mondi scientifici. In questo caso con ILT è un'operazione esclusivamente europea, ma di fatto l'ESO è un'organizzazione che, come dicevo prima, raggruppa 15 nazioni europee. Quindi ci sono sforzi notevoli da parte delle nazioni che operano con fondi decisamente importanti, per esempio per ILT, oltre al fondo normale che ogni nazione dà per il contributo annuale, è stato messo insieme un fondo speciale che per l'Italia, per questo tipo di progetto, ha avuto un valore di 45 milioni di euro che saranno pagati in 10 anni, ma quello che va segnalato, ne abbiamo parlato a lungo col ministro Giannini, perché è un esempio di riferimento che va, a mio giudizio, gemellato, il ritorno per l'industria italiana solo con questo contratto, che vale circa 400 milioni di euro, vuol dire un rapporto 1-9. Fosse possibile poter ottenere simili ritorni in Italia di questo tipo, lei capisce che per il sistema Italia, per la scienza italiana e per l'industria italiana sarebbe veramente un percorso importante. Tenuto conto che tutto nasce da operazioni di piccole industrie, stiamo parlando che le piccole e medie industrie nazionali stanno facendo in molti settori da traino tecnologico. Se abbinati correttamente con le grandi industrie nazionali potremo ottenere obiettivi come abbiamo ottenuto in questo caso. E non è il solo contratto, perché devo ricordare che nell'ambito di ILT, oltre ad avere l'eccellenza internazionale, siamo in questo momento l'unica azienda che sa fare telescopi ed edifici insieme, esistono altre piccole aziende, alcune del nostro territorio, che hanno in mano anche l'altra grande tecnologia proprio nel settore degli specchi, che è quella dell'ottica adattativa, che è quella che serve per poter osservare da terra eliminando gli effetti dell'atmosfera. Siamo quindi l'Italia, devo dirla con orgoglio, siamo una nazione che ha investito in questi ultimi 30 anni, ma con dei risultati che ci portano all'eccellenza mondiale. Molto interessante, consegna di questo questo Extremely Large Telescope 2000? 2024, 84 mesi di lavoro, 30 mesi di ingegneria, 250.000 ore di ingegneria, 1.750.000 ore di manufacturing, 2 milioni di ore di erection, di attività di montaggio in sito, 450.000 ore per metterlo in funzione e 200.000 ore per provarlo, un totale di 5 milioni di ore per poter ottenere un'opera di questo genere. E allora buon lavoro a questo punto, grazie. Grazie a lei. Adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo di start-up, ne parliamo spesso a 2024, il sistema delle start-up, l'ecosistema delle start-up in Italia sta cambiando, sta lentamente anche maturando, migliorando. Questa settimana ne parliamo con Gianluca Dettori, che è il presidente, nonché fondatore, ideatore di D-Pixel. Benvenuto a 2024. Ciao. Gianluca Dettori è un grande esperto di digitale, perché tu da quanto tempo, da quanti anni ti occupi di questo mondo che si trasforma di mese in mese? Ho avuto la fortuna di iniziare con Italia Online in Olivetti, Gruppo Olivetti, nel 1994, quindi sono un paio di decenni e abbiamo visto passare davanti, insomma, ai nostri monitor di tutto di più in questi 20 anni con la digitalizzazione. Esatto. Sembri molto più giovane, eh? Ti mantieni molto bene. Ti ringrazio. Senti, tu, allora, D-Pixel si occupa di startup, sì. Cioè voi gestite fondi di uno in particolare, un altro lo state per lanciare, e investite in startup. Ti faccio subito dire un numero che mi ha impressionato tutte le volte che tu lo citi quando giri l'Italia per presentare quello che fate, per raccontare come funziona il mondo delle startup. Mi impressiona sempre questo numero. Quante startup vedete e valutate ogni anno? Ma noi riceviamo un paio di migliaia di business plan all'anno. 2000 business plan? Sì. Poi abbiamo un modo un po' particolare, perché a noi piace incontrare gli imprenditori e parlargli. E insomma, spesso i business plan, quando... soprattutto nelle fasi iniziali di una startup, sono difficili da leggere, mentre è più facile parlare. Allora abbiamo questo camper, il bar camper, lo portiamo circa in 50 città l'anno, facciamo 50 fermate, e in quelle giornate in cui siamo in giro sui territori, oggi siamo a Bologna, in questi giorni siamo per esempio in Emilia Romagna, stiamo andando insomma in giro per l'Italia, incontriamo circa 10-12 team di startup al giorno, quindi ne vediamo circa 700 l'anno, proprio incontrate. Quindi proprio dal vivo, ma di queste, così a spanne per capire, di queste 700 quante sono valide, buone, cioè che soprattutto che hanno un team capace poi di mettere in pratica l'idea? Ma innanzitutto, sai, è difficile, bisogna qualificare un po' di cosa stiamo parlando. Allora, gente valida e buona, in generale la media è molto alta, cioè chi si avvicina a un venture, diciamo, mediamente, insomma, ha delle idee, ha un certo tipo di approccio imprenditoriale alle cose, vuole provare a raggiungere degli obiettivi, ha un progetto, quindi è comunque una parte nella fascia alta della popolazione. Poi che siano invece dei buoni investimenti, che è il mio mestiere, che possano fruttare, è un altro discorso, esatto, questo richiede una selezione. Ma io ti posso dire i ratio normali del venture: noi mediamente su un deal flow di 2000 che diciamo riceviamo e 700 che incontriamo, ma metti che faremo 10-15 investimenti l'anno quando siamo a regime col fondo. Quindi la selezione è molto altissima. Dura. Sì, è altissima, ma anche perché ogni investitore ha le sue preferenze, quindi il fatto che magari noi non siamo interessati a investire in un certo progetto, che in ogni caso che probabilmente magari è anche buono, interessante, ma noi non siamo interessati per ragioni nostre, perché per mille ragioni. Certo, magari siete più competenti in una materia. Ma guarda, ci sono mille ragioni, cioè, per esempio noi in questo momento non investiamo perché stiamo lavorando al fondo nuovo, quindi indipendentemente io vedo delle cose, magari sono anche interessanti, ma non posso parlarne, nel senso che non posso investire. Quindi per mille ragioni diciamo di no, ma magari c'è un altro investitore che invece è pronto a dire di sì. Quindi sì. Chi fa una startup... Comunque mi stai dicendo che la qualità è buona. Cioè ci sono, sì. quindi in generale, al di là di quelle che incontrate voi, visto che tu conosci molto bene questo ecosistema, chiamiamolo così, delle startup, di gente che comincia a pensare ad una nuova azienda nel mondo del digital, c'è un buon fermento e c'è una buona qualità. Molto buona, c'è un'ottima qualità. Chiaramente ci sono dei gap un po' anche strutturali dell'ecosistema italiano. Faccio un esempio semplice: negli Stati Uniti, in Silicon Valley, normalmente chi fa startup che raccoglie capitali di una certa dimensione è un imprenditore seriale, quindi ha già fatto una, due, tre esperienze. Sì. I fondatori di Twitter venivano da almeno un paio di esperienze di startup non andate bene precedentemente. E quindi fondamentalmente niente, il tema è proprio lì. Per esempio non si trovano imprenditori seriali, semplicemente perché è un ecosistema giovane. Ma a livello di qualità delle idee, di visione dei mercati, e di insomma qualità dei team, qualità proprio degli skill e delle cose, io trovo che sia di ottimo livello, del tutto comparabile a un sacco di posti nel mondo. E chiaramente diciamo c'è ancora, si può sempre migliorare, ecco, si certo, può sempre certo, migliorare certo. Però devo dire è molto confortante. Senti, in tutto ciò poi parliamo anche di trend tecnologici con alcuni esempi. In tutto ciò la quantità di soldi che gira nel sistema è molto importante o non è così importante come no, sembra? Purtroppo la quantità di soldi è estremamente modesta e inadeguata, è assolutamente fuori dai parametri. Siamo a dei livelli di investimento purtroppo molto molto bassi, proprio il rapporto al PIL e il rapporto alla popolazione. Adesso vorrei fare un esempio forse semplice, insomma, l'Irlanda, che è un paese con 6 milioni di abitanti circa, investe 500 milioni l'anno in venture capital circa, noi in Italia circa 70, se ha 60 milioni. Sì, i più Ecco, ottimisti in dicono quasi Francia si investono 100, 10 no? volte i soldi dell'Italia, in Sì. Inghilterra, che sono paesi comparabili a noi. Quindi Sì. lo spazio per crescere, vediamola così, vediamo il Certo, bicchiere mezzo pieno, lo spazio per certo. crescere c'è. Sì, anche perché comunque ci sono molti soldi, cioè, no, Sì. è comunque un paese ricco e le opportunità di investimento possono essere interessanti perché poi, come dite voi, scalano, cioè si moltiplicano i business in alcuni casi quasi all'infinito. Ma c'è questo tema e poi c'è anche un altro tema che di questi tempi il capitale e la remunerazione, diciamo, il rapporto tra capitale, remunerazione e rischio è cambiato radicalmente. Se 10 anni, 15 anni fa, 20 anni fa compravi dei bot, avevi dei tassi di interesse quasi a due cifre o due cifre, e oggi se riesci a ritenere il capitale e ti Certo, porti a casa certo, l'1%, ti devi ritenere fortunato. Questi investimenti invece, quando si investe nell'equity, sono un rischio molto più elevato, hanno un profilo di rischio elevatissimo, però fondamentalmente quando effettivamente il gestore fa bene, portano dei rendimenti a due cifre importanti su archi di 10 anni. Adesso ci fermiamo per qualche secondo, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, tra poco riprendiamo, parliamo di trend tecnologici e poi parleremo anche di 4K e di realtà virtuale. Riprendiamo questa puntata, io sono Enrico Pagliarini, grazie come sempre per la vostra attenzione, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024 radio24.it, mi trovate anche su Facebook e su Twitter e naturalmente anche questa puntata è disponibile nella versione podcast con tutte le nostre interviste in versione integrale, quindi molti più contenuti, molti più minuti rispetto a quelli che vanno in onda e siamo l'unica trasmissione di Radio 24 a offrirvi questa opportunità. Andate sul nostro sito internet oppure attraverso un'app sul vostro cellulare, che sia l'app ufficiale di Radio 24 o anche le app che permettono la gestione del podcast. Se voi andate sull'App Store di Apple oppure sul Google Play Store, scrivendo podcast, vi vengono offerte varie possibilità. Ci sono tante app che permettono di fare questo ed è un modo sicuramente molto moderno di ascoltare la radio on demand, quando lo volete voi. Dunque, con noi Gianluca Dettori, che è il presidente di Dpixel, e non abbiamo ancora parlato di trend tecnologici. Che cosa ti interessa di più? In che cosa investite? Che cosa vedete di interessante, Gianluca? Ti racconterò un po' un mix di, da un lato, cose che ci interessano, ma dall'altro anche proprio le onde tecnologiche Sì, che esatto. vediamo dalle startup, perché è interessante secondo me. Perché? Perché è gente che sta pensando alle cose che arrivano sul mercato tra 4 anni, 3-4 anni, no? Quindi un po' una specie di osservatorio particolare. Beh, innanzitutto nell'ultimo, direi, paio d'anni, soprattutto nell'ultimo anno, una grandissima quantità di progetti sull'Internet of Things, sull'Internet delle cose, quindi su... E tra l'altro questo è... Sono 15 anni che si parla dell'Internet delle cose, no? E uno sempre tende a dire, vabbè, se ne parlerà per altri 15 Se anni, ne ma parla, ancora, però non succede no, le smart niente. cities dove stanno? Chi l'ha viste? No. E Invece? invece no, invece si comincia a vedere che questa tecnologia sta diventando semplice, accessibile, usabile, si sta calando e quindi sta cominciando a vedersi tanti business plan in quel campo lì. Un settore in particolare interessante di cui vediamo diverse cose è quando queste tecnologie calano, per esempio, dentro la fabbrica. C'è una startup, diverse startup si stanno occupando di questo tema. Mi viene in mente una in particolare che fondamentalmente sta costruendo un sistema per interfacciare tutto l'hardware, i macchinari, i sensori che puoi mettere giù e avere giù, oppure già avere nella tua fabbrica, e fondamentalmente puoi mettere in una specie di dashboard, un po', Di diciamo, molto cruscotto digital style, digitale, che sì. ti consente però di avere una quantità di informazioni, poter agire in tempo reale per ottimizzare continuamente i tuoi processi, massimizzare il rendimento dei macchinari, scoprire delle problematiche, risolverle, eccetera. Sì, questo della sensorizzazione, adesso capisco che è una parola un po' azzardata, però la capacità di inserire sensori ovunque, raccogliendo dati dalle macchine che sono nella fabbrica, E quindi conoscendo una serie di informazioni che prima non si conoscevano è uno dei trend tecnologici che stiamo vedendo. Quindi tu dici, ne stiamo parlando già da un po' di tempo, ma adesso vediamo che sta succedendo. Adesso vediamo le applicazioni che possono effettivamente risolvere i problemi e proporre soluzioni, per esempio nel campo dell'impresa, nel campo del... Se uno vuole approcciarsi all'Industry 4.0 e quindi avere una profonda conoscenza e una quantità di dati significative su tutti i suoi processi di produzione per ottimizzarli, oggi si può fare, la tecnologia è accessibile. E questa cosa tra l'altro si porta dietro appunto un'altra evoluzione, quella del big data, no? Da un lato appunto c'è questa, anche ci sono queste, se vuoi, in parallelo sta succedendo questo, dove si possono produrre e accumulare quantità di dati mostruosi sulla tua produzione, su dove si spostano gli oggetti, sui magazzini, ottimizzare veramente, portare a zero gli sprechi, i tempi morti di tutto. E questo però per farlo produce una quantità di dati significativi, che è un bene prezioso, e oggi esistono le tecnologie per entrare dentro questi dati e dargli un senso, no? Ecco, tutte queste cose oggi cambiano radicalmente le possibilità che... cambiano le possibilità, no, di agire di un'impresa. Allora, una cosa che tu mi dicevi poco fa interessante è che siamo nel campo del cosiddetto B2B, business to business, quindi io sono un'azienda che lavora e produce servizi o prodotti per altre aziende. E tu dicevi, molto spesso le startup si rivolgono invece al consumatore finale, al B2C, al business to consumer. Invece, sì, invece in questo campo tu dici che ci sono delle opportunità interessanti. Personalmente noi crediamo molto nel B2B, in questi modelli di business, diciamo business to business, appunto, dove si va a vendere alle aziende. È un campo molto vasto. Si possono costruire spazi di mercato molto... ci sono delle grandi nicchie dentro cui si possono costruire delle grandi aziende. È un campo che si può scalare senza grandissimi investimenti di marketing, perché non è consumer. Se vuoi fare una nuova Twitter, certo, servono miliardi di dollari. È un campo in cui abbiamo avuto casi di successo nel nostro precedente portafoglio, insomma... ed è un campo che però purtroppo è poco praticato dalle startup italiane. Forse un po' meno sexy, un po' meno glamour, non so come dire... mentre invece diciamo dà la possibilità, soprattutto dall'Italia, ecco, di fare un'azienda internazionale, globale, scalare da un mercato non facile, da cui non è facile emergere come l'Italia, e quindi diciamo è una grande opportunità non pienamente utilizzata. Anche perché tu dici le aziende sanno di avere dei problemi in questo mondo che si trasforma verso il digitale. Le aziende sono molto concrete, no? Se tu vai e proponi una soluzione e dico, guarda, ti faccio vedere questa cosa qua, ti faccio risparmiare 30%, si fanno due conti, tirano una linea, quanto costa? Bene, risparmio, guadagno di più, sono più efficiente, compro. È un processo di vendita, diciamo, strutturato, bisogna organizzarsi, eccetera. Però fondamentalmente col digitale poi oggi tutti questi processi si possono super ottimizzare, l'onboarding dei clienti. Puoi farlo in tanti modi oggi, no? Che cos'è l'onboarding dei Portare clienti a bordo. Ah, ok, sì. Ok, quindi da come andare a trovare un cliente? Una delle domande sempre facciamo alle startup è come pensi di andare sul mercato? Cioè, giusto, come andai a prendere i clienti? Come fanno a sapere il tuo prodotto? Come lo convinci? Come glielo vendi? Bravo, sì. Quindi una volta che metti in piedi questi processi, li testi, funzionano, poi industrializzarli per passare da 1 milione di fatturato a 10, a 100, a 1 miliardo... è solo più una questione di processi manageriali e capitale, però il modello di business riesce a costruirlo e a capirlo molto molto all'anticipo. Sì. Senti, allora questo è il grande mondo, e potremmo parlare per ore, dell'IoT, Internet of Things, la Internet degli oggetti, di cui appunto si parla molto. Altri settori, altri trend tecnologici interessanti dove state investendo o comunque investirete? Beh, un campo che ci interessa molto è quello della fabbricazione digitale, quindi dell'hardware, no? Quindi del fatto che oggi si possono produrre oggetti fisici con tecnologie molto molto più rapide, meno costose, si può prototipare molto in fretta gli oggetti, testarli sul mercato e poi aggiustare il tiro, e quindi diciamo si può pensare alla produzione industriale in un modo completamente nuovo. Quindi stampa 3D? Stampa 3D, stampanti 3D, sensori, Arduino, tutto questo mondo della fabbricazione digitale e di come possono costruirsi oggi i prodotti. Per esempio c'è una startup finlandese con cui stiamo parlando, molto interessante, che fa, non so, questi peluche con dentro Arduino, sono degli smart toys, sono dei giocattoli intelligenti, è un peluche per bambini piccoli per farli addormentare la notte, è un peluche che ha un sensore che puoi accarezzare, è un sensore tessile, tu lo accarezzi e lui si accende se hai paura di notte. E quindi è una lampada da letto abbracciabile per il bambino. E questa lampada a sua volta è un personaggio che si interagisce con le storie, per cui i genitori leggono la storia al bambino a letto la sera, e il peluche anche lui si anima, a volte sorride. Cioè la leggono sull'iPad. Dall'iPad, e sì. Quindi interagisce con e l'iPad. Interagisce, eccetera, fa addormentare il bambino. Stanno finendo i test in Finlandia su 100 bambini per vedere qual è la percentuale di bambini che riescono a dormire meglio grazie a una lampada che è accessibile, morbida e del tuo peluche preferito che ti racconta. Quindi le storie. Ci stai dicendo che comunque non guardate solo a startup italiane? No, no, non guardiamo solo a startup italiane, anche se il cuore nostro, direi l'80% delle cose, se penso alle statistiche, in questo momento sono italiane, circa un 20% è dall'estero. Sì. In questo campo qua c'è tantissima innovazione italiana e noi investiremo in questo campo perché crediamo che sia uno di quei campi che può esaltare le competenze e il talento imprenditoriale e creativo. Senti, del nostro paese. Senti, tu hai citato, allora, con la Internet of Things e anche con la fabbricazione digitale, un mondo che tocca molto da vicino l'industria, le imprese italiane, quelle classiche tradizionali, perché è vero, ci sono delle start-up che innovano e si propongono all'industria. L'industria tradizionale ha capito, ha compreso le opportunità del digital, della internet, della internet degli oggetti, eccetera, eccetera, o faticano un po'? Beh, siamo un po' all'inizio e quindi si fa ancora un po' di fatica, però insomma l'interesse, l'attenzione c'è, anche gli esempi di successo. Per cui è un processo che è iniziato e se vogliamo, e non è casuale che stia iniziando in questi anni, siamo ormai veramente. Abbiamo superato il punto di svolta della digitalizzazione, no? Siamo oggi in un mondo in cui se tu fai l'imprenditore, mentre fino all'altro ieri potevi dire ma c'è internet, bah, vediamo, posso occuparmene oppure no, oggi non puoi esimerti dal prendere in considerazione come impatterà sui tuoi clienti, sui tuoi processi, sul tuo mercato, sui tuoi dipendenti, su tutto quanto. Sì. Perché la densità digitale, la pervasività di questa tecnologia, e se non lo fai tu lo farà purtroppo qualcun altro, quindi diciamo c'è un po' sempre un rischio opportunità di fronte a un'innovazione, no? Il rischio di rimanere obsoleti oppure vedere l'opportunità, ma vedere l'opportunità richiede di uscire un po' dalla zona di comfort, no? Provare qualcosa di nuovo, certo, e questo certo. Non è sempre facile. Senti, sugli artigiani che cosa mi puoi dire? Perché abbiamo parlato di industrie, ma anche sugli artigiani ci sono dei begli esempi che danno opportunità a questo mondo. Ma sì, ormai la dimensione del commercio elettronico, tra qualche anno non lo chiameremo più commercio elettronico, lo chiameremo commercio e basta. Sì, sì, sì. Secondo me valorizza e potenzia tantissimo, no? L'artigiano, le sue singole capacità, le sue unicità. E ci sono tanti modelli nell'e-commerce che stanno nascendo in questi anni interessanti di società che hanno un modello retail, quindi vendono, ma vendono solo online, quindi vanno dritti sul consumatore finale, senza intermediari, senza distributori, senza eccetera, direttamente, e basano il loro modello di business proprio sulla disponibilità del prodotto. Per esempio c'è una startup che era venuta anche a Shark Tank che fa scarpe personalizzate di qualità fatte a mano, le vende online e le personalizza anche online, quindi tu ti fai il design della scarpa, il colore, scegli il materiale eccetera eccetera, poi schiacci un pulsante e la produzione viene fatta da un artigiano delle Marche, esperto, bravissimo, un calzolaio di altissimo livello. Quindi questo è un modello che non sarebbe potuto esistere senza fino il a qualche digitale tempo fa. Sì, è un modello retail nuovo. Sì, certo, ci sono esempi anche nelle camicie, nelle di scarpe, tutti i tipi. Sono ormai brand aziende di fashion che stanno nascendo online e si basano la loro forza sulla base clienti online mostruosa che hanno e la capacità di avere dei buoni contratti di sourcing dai fornitori. Sta succedendo un po' come quando nacque Dell, no? Prima i PC si facevano in certo modo, no? Uno assemblava tutto. Oggi si possono spacchettare i vari pezzi della catena del valore e ricomporli in un modo nuovo. E questa è una ottima opportunità per molti artigiani. Adesso non so se esistono dei numeri o una fotografia che ci dice se questo sta avvenendo in dimensioni importanti o sono beh, pochi. Ci sono dei segnali importanti. Guarda il fatturato di Etsy negli Stati Uniti. Sì? Etsy è la più grossa piattaforma di vendita diretta per chi fa artigianato, prodotti così di questo tipo. Stiamo parlando, non sono più aggiornato, ma fino a qualche anno fa ero a 500 milioni di fatturato. Secondo me hanno superato ampiamente il miliardo. Bene, Gianluca, grazie per essere stato con noi. Quando partirà il nuovo fondo? Mi fai una domanda da mille pistole. Non lo so, stiamo aspettando l'autorizzazione della Banca d'Italia. Noi speriamo di riuscire a partire per l'estate, però qua l'estate si avvicina. il mare si intravede. È già caldo. Esatto. Comincia a far caldino. Esatto. Speriamo entro l'estate di riuscire a partire. Insomma, comunque quest'anno vorremmo veramente partire. Bene, con il tuo bar camper, che è un'attività interessante. Quello è già partito sempre in giro. No, per dire, è una buona opportunità perché lo diciamo, insomma, chi ha un'idea può rivolgersi al bar camper aspettando che passi per la propria città. No, in questo momento, se vuoi, proprio nel fatto che la nostra sensazione è che tra alcune settimane partiremo con gli investimenti, quindi stiamo cominciando veramente a guardare dentro il deal flow, per cui questo è il buon momento per cominciare a approcciarsi a noi, anche perché ci richiede a noi qualche settimana, qualche mese per esaminare i dossier, ne riceviamo talmente tanti. Esatto. Quindi... Bene, grazie, a presto. Grazie, a presto. Scorsa settimana abbiamo parlato della finale di Champions League di questa settimana e abbiamo raccontato il retroscena tecnologico di questa finale, una macchina organizzativa gigantesca dal 4K per la prima volta sul digitale terrestre per un evento dal vivo. E poi abbiamo parlato di HD e anche degli esperimenti che si stanno facendo per il video 360, quindi il video a 360 gradi, la realtà virtuale. Proprio su questo fronte e proprio in concomitanza con la finale di Champions League, Nissan, che è uno degli sponsor, ha annunciato che produrrà una trasmissione video in diretta su YouTube a 360 gradi, riprendendo i tifosi per le vie di Madrid durante la partita. Il documentario è intitolato Finale 360. La realtà virtuale è una delle nuove dimensioni per le grandi televisioni, per i grandi broadcaster internazionali, come ci ha detto appunto la scorsa settimana Gianluca Festa di Mediaset, e vi invito a riascoltare quell'intervista se ancora non l'avete fatta, è stato molto interessante. La stessa cosa me l'ha detta questa settimana Massimo Bertolotti, con il quale ho parlato. Bertolotti è il responsabile innovazione di Sky Italia e nella nostra chiacchierata siamo proprio partiti dalla realtà virtuale, i video 360 gradi. Allora, la virtual reality, VR o 360, è una nuova esperienza di visione, prima di tutto, e rappresenta la possibilità di entrare dentro il video. Questo rappresenta forse la risposta all'inizio di quando si pensava che cosa dovesse fare la televisione, cioè trasportare un contenuto o un'immagine a centinaia di chilometri di distanza a casa, per rendere possibile a chi era seduto guardare cosa essere là. In questo caso è proprio questo, cioè io, mettendo una camera in un punto che riprende a 360 gradi, do la possibilità a un utente di trasportarsi in quel punto. Prima di tutto, quindi, immersività, ma non solo, gli do un fattore aggiuntivo che è la personalizzazione. Qual è? Cosa vuol dire la personalizzazione? Che avendo la possibilità di muoversi all'interno di quell'immagine a 360 gradi in tutte le direzioni, lui può scegliere cosa vedere. Non è costretto a vedere quello che gli si impone. È chiaro che dietro ci deve essere uno storytelling, però nello storytelling uno si può muovere. Certo, e io vedo queste immagini con un visore di realtà virtuale. Posso vederli in vari modi. Quello che stiamo sperimentando sono tantissimi modi, e in base ai modi con cui penso di far vedere un'immagine o una clip o un video tutto completo, decido come farlo. I visori sono un esempio, però posso anche banalmente sfruttare la visione 360 attraverso un device, staccandomi in un certo senso dalla visione, cioè attraverso un sito web, banalmente, oppure attraverso il mio smartphone o tablet, navigando, muovendo lo stesso tablet o utilizzando il dito per spostarmi. Quindi, ad esempio, facciamo proprio un esempio pratico. Noi adesso siamo all'interno di uno dei più bei parchi di Milano. Se avessimo a disposizione sul nostro smartphone o sul nostro tablet un'immagine a 360 gradi, potremmo navigare girando col dito o anche proprio spostando il terminale, vedere tutta l'immagine a 360 gradi, sopra, sotto, destra, sinistra. Esatto, uno può spaziare all'interno del parco e se possiamo aggiungere uno step successivo che stiamo provando a introdurre nelle nostre lavorazioni 360 VR, è quello di aggiungere anche un cammino all'interno di queste immagini, cioè creare una serie di riprese e collegarle attraverso una realtà aumentata, cioè portare quindi l'utilizzatore non soltanto a saltare da una clip all'altra selezionandole, ma facendogli fare un percorso guidato. Se possiamo, un esempio di un percorso guidato in un museo potrebbe essere rappresentato anche in un percorso guidato all'interno di un film, in un backstage un film o di mille altri, o all'interno di una news. Certo, questo è interessante, cioè quindi una delle prospettive è la produzione di servizi giornalistici a 360 gradi, di modo che io possa essere veramente all'interno della notizia. Assolutamente. Adesso un esempio che abbiamo mostrato durante la giornata di oggi è stato una clip non lunghissima di Calais, in cui si poteva non soltanto essere all'interno della situazione dei migranti, della situazione in quel momento, ma attraverso un racconto, attraverso un collage di queste immagini e un racconto giornalistico, si è potuto sia avere l'informazione giornalistica, ma anche essere dentro e vedere cosa succedeva intorno, non semplicemente con quello pezzo di immagine che viene messo normalmente in un TG. Sì. Senti, adesso abbiamo fatto degli esempi di immagini registrate, che quindi sono a disposizione, quando noi le vogliamo le andiamo a vedere. State pensando anche, cioè una delle prospettive è anche quella di fare eventi dal vivo con immagini a 360? Sì, in realtà l'esperienza 360 nasce proprio dal live. Cioè noi ci siamo avvicinati qualche mese fa, ormai un anno fa, alla VR, al 360, iniziando a lavorare, iniziando a studiare diciamo che alla fine dell'anno scorso abbiamo detto: bene, abbiamo un grande evento, perché alla fine gli eventi, la costruzione dei contenuti è la parte più importante. Abbiamo un grande evento che era la finale di X Factor, abbiamo detto bene, la finale di X Factor possiamo fare qualcosa in 360, ovviamente essendo complementare alla produzione principale senza dar fastidio. Allora abbiamo trovato con la produzione, col grande aiuto della produzione, una posizione dove puoi mettere una camera vicino al palco per dare un punto di vista diverso, e abbiamo fatto tutta la finale di X Factor live, replicata qualche settimana fa con la finale di Italia's Got Talent, in una posizione più, in questo caso più bella, perché eravamo tra il palco e i giudici, quindi era possibile spaziare tra le performance dei protagonisti e vedere contestualmente cosa facevano i giudici nello stesso tempo. Ci vuole molta banda per utilizzare un servizio di questo genere in diretta? Allora, in quello che abbiamo, per il fine con cui abbiamo fatto questo esperimento, cioè che era l'utilizzo 360 attraverso uno smartphone, la banda è quella paragonabile a un contenuto HD, quindi abbiamo usato delle compressioni molto spinte, proprietarie, però simili a quelle di un contenuto, di quello che usiamo per l'HD, e l'abbiamo reso disponibile sia in questa modalità che anche attraverso i cardboard. Chi aveva dei cardboard poteva utilizzarli per vederle in maniera 360 con i cardboard. Senti, con questa nuova dimensione del video state entrando molto di più su internet, quindi su una piattaforma che non è proprietaria vostra. Ovviamente voi basate il vostro business su una parabola, un servizio via satellite che prevede un decoder, quindi un mondo abbastanza chiuso, uno è abbonato e rimane lì. Ecco, in questo caso invece uscite ed entrate in un mondo dove c'è anche una competizione maggiore, cambia un po' tutto. Beh, diciamo che in realtà è da un po' che abbiamo iniziato un percorso che ci vede protagonisti anche su, chiamiamolo internet, su un mondo più orizzontale, attraverso Sky Online, attraverso anche un, diciamo, semi aperto, come potrebbe essere il discorso del rapporto con l'IPTV, ad esempio, con Telecom Italia, cioè comunque slegato dalla parabola, sempre sul nostro sito box, ma slegato dalla parabola. Quindi un percorso che sta continuando attraverso la creazione del Digital Lab in Italia e che continuerà attraverso, sfruttando internet per le sue potenzialità, trovando il giusto modo di rappresentare nel miglior con la miglior qualità possibile i nostri contenuti, perché ricordiamoci, la chiave rimangono i contenuti. Certo, certo. Però in questo caso voi state proponendo dei contenuti gratuiti su internet, sì, a 360 gradi. Allora, i contenuti sono attualmente gratuiti perché noi riteniamo che in questo più che gratuiti sono complementari all'utilizzo del nostro evento principale, il nostro contenuto principale. Ad esempio, abbiamo parlato di due eventi live, sono i due eventi live che sono stati anche trasmessi in free to air, quindi un complemento totale alla produzione che anche free to air, dato comunque è un valore. Sì, per free to air intendiamo sul digitale terrestre, sul digitale gratuito, terrestre, sì. su cielo e su TV8. E mentre il resto delle clip accompagneranno e creeranno engagement su dei nostri contenuti. Al momento questo vediamo che sia la parte iniziale dello sfruttamento di questo tipo di contenuto. Ovviamente, come in un futuro, stiamo pensando a delle lavorazioni più complesse o comunque che coprono gli eventi che abbiamo, sia sportivi che non, per creare qualcosa che vada oltre alla clip da dare in modalità, diciamo, gratuita per definire, ma comunque legata a un sito web o a un portale web. Allora, una delle buzzword, una delle parole che si usano più in questi tempi, oltre alla realtà virtuale, l'altra è il 4K. Allora, la vostra visione del 4K? La visione del 4K per noi è abbastanza semplice, cioè nell'idea che per noi innovazione significa portare al cliente un'esperienza nuova, ci è apparso subito chiaro che portare il 4K a casa dei clienti, 4K che significa da solo semplicemente una risoluzione maggiore, era un qualcosa di limitato, considerando la rivoluzione domestica che c'era bisogno di fare. Questo spieghiamolo bene, perché è importante ed è centrale nel mondo 4K. Assolutamente, cioè per ricevere un segnale 4K ovviamente uno deve avere un televisore 4K di base e ovviamente anche un device in casa che possa ricevere, se non è direttamente televisore a riceverlo, la modalità 4K. E questo è sicuramente una rivoluzione in casa, il cambio dello schermo televisivo. Il cambio dello schermo televisivo e sfruttare soltanto una risoluzione, abbiamo fatto, facendo delle prove, ma anche la letteratura di internet lo dice, ha un effetto positivo nell'esperienza visiva quando si supera un certo numero di polliciaggio. 55 pollici è un numero chiave che può girare, 55 pollici non è da tutti. Quindi tu stai dicendo, per veder bene questa definizione maggiore del 4K, o hai il TV molto grande e stai anche vicino al televisore, oppure non ti accorgi della differenza con l'HD, poco. No, esatto, oppure non ci si accorge con la differenza dell'HD, se l'HD ovviamente è fatto bene. Chiaramente se l'HD è un HD arrangiato, certo, è chiaro, certo, che salto c'è. Con un HD molto fatto molto bene, come noi tentiamo di fare tutte le volte sui nostri canali, difficilmente riusciamo a avere questo salto. Quindi riteniamo la tecnologia da sola non pronta. Abbiamo anche un po' di confusione sul mercato, cioè anche a livello di sigle, banalmente 4K, Ultra HD, UHD, cioè tre sigle per rappresentare la stessa cosa. Raccontavo semplicemente, ieri mi è arrivata una rivista di settore, su tre pagine, quattro articoli, e lo chiamano in tre modi diversi. La stessa cosa sta accadendo per quello che verrà dopo, e questo sicuramente non aiuta neanche a far comprendere a chi oggi si sta avvicinando a questo mondo che cos'è. Quindi diciamo che il 4K da solo per noi non è sufficiente, in più non c'è neanche una mano dal punto di vista del mercato per far capire che cosa sia. Quindi per noi il passo che può rappresentare una svolta e quindi un effetto positivo è quella componente colore. Componente colore che da sola ha un suo valore. Il suo valore qual è? Quella che rappresenta i colori più fedeli possibile, e il colore fedele significa una cosa sola: maggior contrasto e maggior dettaglio intrinsecamente. Quindi associato a un miglioramento di risoluzione, l'HDR, adesso dico la brutta parola, un'altra delle tante parole che bisogna imparare, che poi viaggia insieme con un'altra parolina che non si legge mai perché fa meno brand, che si chiama White Color Gamut, con cui si accompagna, comunque, che danno queste nuove dimensioni di colore, sono quelle che insieme possono creare un vestito vestito da sera con le belle paillette, con tutti gli accessori per presentare un nuovo formato televisivo. E questo quando arriverà, per quanto vi riguarda? Perché ci siamo, l'HDR è già una tecnologia disponibile sul mercato. Allora, per correttezza da dire, è disponibile sì, ma ancora con parecchi punti domanda, perché di standard ce ne sono approvati banalmente due. Cioè, uno potrebbe dire, ma quale HDR? Quale HDR, esatto. Sì. Comunque, diciamo così, per noi l'anno cruciale sarà il 2017. Oggi è difficile dire esattamente il momento del 2017. Però il 2017 ci stiamo lavorando da mesi sull'HDR in varie modalità, però l'anno focale sarà il 2017, quando abbiamo anche deciso di portare in Italia la piattaforma SkyQ. Ecco, avremo tempo quindi di riparlare anche di questa evoluzione. Le ultime parole su una novità che voi avete già disponibile, ma che renderete disponibile in modo particolare per gli europei, l'avete chiamata Super HD. Questo non è uno standard di mercato, no. È un'invenzione tua. Sì, allora diciamo così, non è uno standard di mercato perché ovviamente è un arricchimento dell'HD. Cioè, noi cosa abbiamo deciso quando ci siamo accorti di questo passaggio non propriamente completo verso il 4K, cioè il passaggio che gli mancava qualcosa, abbiamo deciso di trovare una modalità per comunque offrire qualcosa di più ai nostri clienti. Qualcosa attraverso, sfruttando al massimo le potenzialità dell'HD, tutto quello che non era stato ancora esplorato. Quindi siamo andati a lavorare sui vari step della catena, dalla produzione alla trasmissione, regolando tutti i vari aspetti di questo tipo della catena distributiva, e abbiamo cercato di arricchire l'immagine sia nella sua componente di dati, quindi maggiori dati a disposizione e quindi trasmessi, sia nelle componenti aumentando il contraste di colore, sia filtrando dove possibile tutti i difetti che un'immagine potesse avere, per creare alla fine un effetto che è un più gradevole e che possa essere comunque a generare un'esperienza di visione migliore dell'HD senza dover per forza chiedere agli utenti di fare la famosa rivoluzione domestica. Quindi non cambiando il televisore, sempre HD. Sempre HD, il televisore HD sugli attuali i nostri decoder che abbiamo distribuiti. E come sempre io vi ringrazio per aver ascoltato anche questa puntata di 2024, per la vostra attenzione. Continuate a scrivermi a 2024@radio24.it. E come sempre io vi ricordo, preferisco l'email, nonostante ciò c'è chi mi scrive puntualmente su Facebook. E vabbè, cosa devo dire? Ci sentiamo la prossima settimana, questo è 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, ricordate che il nostro programma va in onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica alle 13.30, oppure trovate sempre la versione podcast da, in certo senso, preferire, perché qui mettiamo tutti i nostri contenuti in versione integrale, quindi con molti più minuti a disposizione rispetto a quello che sentite in onda, e per questo fate pubblicità 2024 per diffondere la cultura tecnologica in Italia. Ci risentiamo la prossima settimana.